America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Avete visto la notizia drammatica del bombardamento di una scuola delle Nazioni Unite a Gaza, dove sono morte 15 persone, ferite oltre un centinaio di persone? Ecco, è una notizia di ieri, ma ve la propongo oggi perché è quella tipica notizia su cui si combatte non soltanto la guerra guerreggiata con tutti gli aspetti tragici che questo comporta, ma perché è un classico esempio di una battaglia di comunicazione immediata che c'è stata fra palestinesi e israeliani, perché subito dopo il bombardamento i militanti di Hamas hanno detto: beh, questo è il risultato di un attacco di un carro armato israeliano che ha lanciato dei proiettili e ha colpito questa scuola. Però gli israeliani hanno detto anche due cose: hanno detto, beh, avevamo avvertito le Nazioni Unite di sgombrare la scuola e non l'hanno fatto perché c'erano intorno a questa scuola dei depositi di armi che potevano essere degli obiettivi militari, e soprattutto hanno anche insinuato il sospetto che il bombardamento potesse essere stato causato da un razzo sparato dai militanti di Hamas che stavano combattendo contro gli israeliani per il controllo di un paesino lì vicino. Questo è uno degli esempi più eclatanti di questa battaglia mediatica, ma devo dire che la guerra sui social media è un coté delle battaglie che si combattono ogni giorno a Gaza, non secondario, molto importante, perché finisce per dare dei messaggi all'opinione pubblica, e ciascuna delle due parti, Israele e Hamas, cerca di tirare l'opinione pubblica internazionale dalla sua parte. Per cui ci sono dei guru, dei veri e propri guru, che cercano di dare un certo taglio all'informazione. Per esempio Hamas dice: attenzione, ogni volta che mettete su un tweet che ci sono state delle vittime, aggiungete sempre innocenti. E Israele invece dice ai suoi guru: cioè, attenzione, ogni volta che mettete un tweet in cui dite che ci sono state delle vittime civili fra i palestinesi, mettete che erano degli scudi umani. Ecco, è attorno a questa differenza semantica che negli ultimi 30 giorni, perché è una battaglia che va avanti da ben prima che scoppiasse la guerra calda, tra virgolette, si sono creati due punti di riferimento principali. Uno è l'hashtag su Twitter, per chi conosce la terminologia Twitter, Gaza under attack. L'altro è hashtag Israel under fire. Cosa è successo? Che alla fine di questo periodo Gaza under attack è stato usato oltre 4,5 milioni di volte, mentre Israel under fire poco più di 220.000. Quindi questa guerra mediatica, la guerra sui social media, è stata chiaramente vinta dai palestinesi, con tutte le conseguenze e le ricadute, e cioè che l'opinione pubblica mondiale, i media tradizionali e così via, così via, hanno cominciato a simpatizzare sempre di più per la causa di Hamas, che cerca di difendere la striscia di Gaza dagli attacchi degli israeliani, che per quanto dicono che loro vanno a chiudere i tunnel perché ci sono i razzi, eccetera, eccetera, e alla fine i numeri contano: 700-800 morti da parte palestinese e una trentina di morti da parte israeliana, con un ulteriore aggravante: la maggioranza dei morti palestinesi sono civili, mentre la maggioranza dei morti israeliani sono dei soldati. Ecco, in questo contesto, vi dicevo, l'opinione pubblica internazionale, soprattutto europea, si è molto più schierata con la causa di Gaza. In America invece il 51% degli americani, questo secondo un sondaggio di venerdì scorso del Pew Research Center, è schierato dalla parte dello Stato ebraico, contro il 14% che sostiene i palestinesi. Vi do alcuni dettagli: insomma, l'esercito israeliano per esempio ha messo in campo 40 esperti tra grafici, animatori e programmazioni per la sua campagna social, e però questa è stata alla fine una strategia più tra virgolette istituzionale, che ha fatto meno presa sul pubblico dei social media. Un esempio perfetto è dato dai termini usati dalle due parti. Le operazioni dello Stato ebraico, per esempio, sul piano semantico proiettano un senso di forza superiore di grandiosità e di decisione che non poteva essere evitata. È un'informazione statica che, secondo gli esperti di social media, appartiene al passato e non alla rapidità di immagini immediate che si ricevono dal campo. Vi dico questo perché sul nostro sito del Sole 24 Ore abbiamo un ampio servizio dedicato alla questione del ruolo dei social media e di quanto sia difficile a volte districarsi in una ragnatela di informazione, alcune che possono essere vere ma altre manipolate naturalmente da entrambe le parti. Bene, in questa situazione drammatica si continua ad auspicare un cessate il fuoco che possa tenere, un cessate il fuoco che possa aprire la strada per negoziati di pace. Ecco, questi sviluppi non potrò raccontarveli perché oggi è l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi vi saluterò poi in chiusura di trasmissione, ma volevo approfittare di questa puntata di oggi per darvi un po' un quadro di cosa aspettarvi da qui alle prossime settimane, che cosa seguire. Naturalmente gli sviluppi a Gaza e Medio Oriente, ma anche gli sviluppi in Ucraina, dove la situazione continua a essere molto tesa e secondo me drammatica. Anche lì si dovrà arrivare, speriamo presto, a una soluzione per porre fine a una guerra che avviene in Europa. Ecco, c'è una coincidenza un po' eerie, come si direbbe in inglese, un po' suggestiva. Il 28 luglio del 1914 è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Siamo al centenario, ve ne ho parlato in più occasioni nel corso di puntate precedenti, e devo dire che questa coincidenza di eventi così drammatici un po' dappertutto nel mondo con l'anniversario, col centenario dell'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, dovrebbe farci riflettere, farci pensare, portare consiglio alle leadership internazionali che forse è giunto il momento di sedersi a un tavolo e di parlare, come suggeriva, come consigliava ieri nell'intervista che le ho potuto fare Ruth Dayan, la vedova del grande eroe israeliano Moshe Dayan, il vincitore della guerra dei sei giorni. Bene, chiudiamo con la parte politica rapidamente, uno sguardo all'economia. The committee will likely continue to reduce the pace of asset purchases in measured steps at future meetings. Janet Yellen, presidente della Federal Reserve, la settimana prossima ci sarà una riunione del Federal Open Market Committee, il comitato monetario. L'economia americana non è in forma splendida. Dal Fondo Monetario Internazionale è giunto un assessment, una valutazione di un'economia, come dire, che continua a essere un po' lenta, l'inflazione sotto controllo, per cui secondo me alla fine di questa riunione la Yellen confermerà che, a meno che non ci siano cambiamenti improvvisi che non possiamo prevedere, ma confermerà che la politica resterà una politica di tassi vicino allo zero fino alla prima metà del 2015. Ma seguite questa riunione perché sarà molto importante, le sfumature nelle dichiarazioni della Fed sono molto importanti. We seeing as necessary going forward a reset in the area of monetary policies. We believe that quantitative easing and the accommodating monetary policies that have been adopted so far should be continued up until such point where growth is well anchored in those economies, and this is not yet the case everywhere. Ecco, Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, non ha dato stime soltanto per l'America, ma anche per i paesi europei e per l'Italia. C'è stata una riduzione della stima di crescita per il nostro paese al 0,3%. L'Italia fa peggio di Francia, di Spagna, la Germania stacca tutti che va benissimo, i problemi di sempre restano, il messaggio è chiaro, procediamo con le riforme. E dunque, cari ascoltatori, vi saluto con un auspicio per il governo Renzi che riesca a farcela, perché da questa parte dell'Atlantico, ve lo posso garantire, tutti si aspettano un pacchetto di riforme rapido e incisivo. Speriamo che ci sia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, come vi dicevo, siamo arrivati all'ultima puntata di America 24, pausa estiva, canzoni estive, riprenderemo a settembre. Nel frattempo vi saluto con una grande canzone dell'estate americana, dei Beach Boys, Surfing USA. California, yeah. You see them wearing their baggy New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi auguro una felicissima estate e vi dà appuntamento a settembre. Goodbye and get going! America 24.